Avevo fatto appena tempo a pormi delle domande su di un titolo del Corriere della Sera che la questione mi si mostrò in tutta la sua evidenza grazie ad un telefilm della serie Pesce Lesso, Derrick, il detective per l'amore del quale ogni delinquente desidera espiare. Il giornale diceva che la sinistra italiana era alle prese con il mal francese. Ah, quello che in Francia si chiama del male italiano. Deve essere questa un'esemplificazione di relativismo culturale, immagino. Vabbè, lasciamo perdere il fatto che io credevo che fosse morta e sepolta da un pezzo, dico la sinistra, ragion per cui il saperla malata, e peraltro malata non da poco, costituiva pur sempre un motivo di sollievo, lasciamo perdere. Il problema del mal francese era un altro. Il compagno Fracastoro, la sua sifilis, del morbo gallico, l'aveva scritta più o meno intorno al 1530, e va detto che dopo secoli di successi indubbi, la sifilide, la malattia a trasmissione sessuale che per l'appunto i francesi eressero a gloria nazionale, dopo secoli di trionfi è da un po' che, vabbè, diciamo che è da un po' che in ribasso, surclassata come da agenti virali più molesti di quello spirocheta che, pallido com'era, sembrava destinato ad una breve carriera. Invece il giornale, non appena in Francia vincono le destre e non appena si tratti di verificare quali argute conseguenze ne tragano le sinistre italiane, non trova di meglio che ricorrere a questa metafora. Per le sinistre italiane, per le stesse sinistre, per quelle stesse sinistre che anelano a quel, a quanto sembra, a quel sistema maggioritario che per l'appunto dà tutto il potere alle destre, per le sinistre si presume che la vittoria delle destre sia un male. Queste destre sono in Francia e nel repertorio delle vecchie metafore fortunate c'è solo il mal francese. Il fatto che alla maggior parte dei lettori di una certa età, per esempio dai 30 in giù, la metafora non dica un granché, ora che perfino i dispensari celtici cambiano nome, a quanto pare non costituisce un deterrente sufficiente per evitarne l'uso. Si tira avanti, insomma, una metafora in agonia, riservata ai maturi signori e da quei libertini di un tempo forse convinti che Parigi valesse bene una messa. Guardo Derrick, il caso umano della Repubblica Federale Tedesca, e dall'aspetto problematico della cosa ne ricevo una conferma. Non voglio dire che fra le tante afflizioni di cui deve patire l'ispettore Derrick abbia anche il mal francese, ma voglio soffermarmi sul seguente episodio. Allora, lui è lì col suo fido scudiero e gli dice al fido scudiero: ferma quell'automobile, chiedi al conducente nome e cognome. E il fido scudiero va, siamo in un parcheggio e l'automobilista in questione sta facendo manovra, gli fa cenno di fermarsi, vabbè, quello si ferma, il fido scudiero si avvicina al finestrino chiuso dalla parte opposta a quella del conducente, quello gli fa uno sguardo interrogativo per dire ma che cavolo vuoi, e questo gli fa con la mano destra il segno della manovella, il che significa abbassa il finestrino, no? Ecco, il punto è proprio questo. Il fido scudiero fa il segno della manovella, ma l'automobilista, per abbassare il finestrino, non gira nessuna manovella. Allunga il dito indice in basso alla propria destra e il finestrino si abbassa. Allora il segnale motorio viene eseguito, il suo significato viene compreso e tuttavia ne segue un'esecuzione diversa. Designante e designato sono stati messi in rapporto una volta e come inseparabili continuano a mantenere il loro rapporto anche quando le ragioni di quel rapporto sono venute meno. È vero che non tutte quelle ragioni sono venute meno, è vero. È vero che io, per esempio, possiedo ancora un'automobile i cui finestrini si abbassano compiendo il gesto della manovella, e il fisco dovrebbe tenerlo presente, ma è presumibilmente vero che il gesto rimanga anche in un prossimo futuro, allorquando tutte le automobili come la mia saranno a far bella mostra del proprio decadimento materiale in quel che un tempo passato sarebbe stato designato come un bel prato. La cosa mi riporta alla mente un'osservazione di Desmond Morris, credo nell'uomo e i suoi gesti. A quanto dice lui, in America Latina chiunque, anche i ragazzini, fanno il gesto combinato della cornetta e della manovella per designare l'uso del telefono. Lo fanno anche se i telefoni a manovella non li hanno mai visti e appartengono ormai ad un passato morto e sepolto. Il linguaggio rimane anche se le condizioni materiali che gli hanno dato origine sono del tutto modificate. In certi casi rimane, in altri casi evolve di pari passo. Ecco, il problema è il perché, e questo perché non è semplicissimo. Ci provo a dare un'idea. Credo che si debba tenere d'occhio due fattori, spesso fra loro contrastanti: l'economicità e l'univocità. Mi spiego, facciamo il caso del finestrino. La manovella è stata sostituita da un congegno elettrico attivabile con un interruttore a pressione. Basta un dito. Ma quante sono poi le cose per le quali basta un dito? Tante. La luce, il telefono, la televisione, il frullatore, il computer, certi apparati sessuali secondari e primari, la macchina da scrivere, la calcolatrice, eccetera. Troppe. Se sostituisco il gesto della manovella con un dito indice teso, anche se rivolto verso il basso, rischio di sostituire un gesto sufficientemente univoco con uno che può andare bene per svariati significati e dunque indurre in confusione l'interlocutore. Quando la polivocità sia stata sconfitta, possono intervenire quelle leggi dell'economia che governano i sistemi linguistici. La metafora del mal francese avrebbe potuto essere evitata, ma a costo di una perifrasi che in un titolo di giornale avrebbe avuto bisogno di spazio maggiore. Il fatto che la malizia della metafora non avrebbe potuto essere intesa da tutti i lettori è stato sacrificato rispetto al fatto che anche una lettura letterale sarebbe stata ugualmente idonea allo scopo. La destra è un male e quella destra indiscutibilmente è francese. Il gesto della manovella per i telefoni dell'America Latina, questo gesto potrebbe risultare più economico da un punto di vista motorio, più facile, più rapido del gesto che prevede una mano semichiusa portata all'orecchio. Potrebbe essere la testimonianza di una coordinazione manuale che nella nostra civiltà apparentemente più evoluta è andata persa. E il fatto che noi europei ci si sia invece indirizzati verso la seconda soluzione, lasciando nel dimenticatoio la prima, può addebitarsi alla nostra specificità motoria, in ragione della quale qualcosa che è più economica e meno dispendiosa per qualcuno non lo è affatto per un altro, come che so, potrebbe essere il petrolio per un abitante del Kuwait o per l'automobilista italiano. E può altrettanto addebitarsi all'esito di una concorrenza proprio fra due gesti simili per designare cose ben diverse. Infatti da noi, ove la concentrazione di automobili è ben maggiore rispetto a quella dell'America Latina, il gesto della manovella per designare l'uso del telefono avrebbe potuto sovrapporsi e confondersi con il gesto di abbassare il finestrino. Darwiniana è anche la lotta per la sopravvivenza del segno e della parola all'interno di quel particolarissimo tipo di giungla che è il linguaggio. Baby, please don't go. Baby, please don't go down, and you old ain't you know I love you so. Baby, please don't go.